Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, una voce radiofonica dalla parte degli altri animali, per interpretare la realtà, i fatti, le notizie, le opinioni, tenendo in considerazione gli altri animali. Siamo arrivati alla puntata numero 519, nella quale parleremo di cespugli in fiamme senza Mosè, crune del lago senza cammelli, religiosi involontari e uno star system in cui il clima è cambiato. Speriamo di avervi incuriositi. Dedicheremo grande parte di questa puntata all'Australia e alla grande distruzione di vite e di corpi, piante e animali in corso in quel paese, con numeri da ecatombe. Per cambiare rispetto alle riflessioni già sentite, abbiamo consultato la pagina di divulgazione scientifica Chi ha paura del buio con punto interrogativo finale e vi proponiamo alcuni dei suoi contenuti. Viene spiegato che il bush australiano è un ambiente che desidera bruciare con tutte le sue forze e che bruciando migliora il suo stato di salute e la sua biodiversità, con i suoi tempi, rigenerandosi nel corso di anni o decenni. Anche gli animali conoscono il pericolo e molti sanno rispondere. La stima di 500 milioni di animali coinvolti o addirittura 1 miliardo, rilanciata dai media, sostiene questa pagina che sia una stima grossolana e un po' allarmista, che considera ad esempio anche gli uccelli, che ovviamente possono invece volare e allontanarsi dall'area, con l'importante esclusione però dei piccoli e delle uova. Gli animali più piccoli e meno mobili, come il koala, ma anche anfibi, micromammiferi e rettili, possono effettivamente non riuscire a fuggire e questi habitat saranno radicalmente modificati per molti anni a venire. Pertanto molti animali non troveranno più condizioni idonee per la loro vita. Altri, in compenso, sempre secondo la pagina Facebook Chi ha paura del buio, ne troveranno addirittura di migliori. È un fenomeno noto in Australia, quello per cui alcuni falchi sono in grado di trasportare rametti ardenti proprio per propagare attivamente gli incendi su nuove aree, liberando così la visuale sui loro nuovi territori di caccia. Dunque questa pagina sembra minimizzare l'allarme sulla perdita di biodiversità. Diversamente il WWF ha diramato un comunicato nel quale si parla di apocalisse e si stima in 8,4 milioni gli ettari bruciati in Australia, una superficie pari a quella dell'Austria. Oltre 1 miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi. Si tratta di una perdita straziante, dice il WWF, che comprende migliaia di preziosi koala della costa centro-nord del New South Wales, insieme ad altre specie iconiche come i canguri, i wallaby, i petauri, i potoroo e uccelli melifagi. Tornando alla pagina Facebook Chi ha paura del buio, viene poi ben spiegato nelle conclusioni quello che possiamo fare, anzi quello che dobbiamo fare. La cosa più complicata, dice, ma anche la cosa più necessaria, è cambiare il nostro ordine di idee sui consumi. Dobbiamo sforzarci di vedere l'impronta del climate change in quello che sta succedendo e impegnarci per ridurre le nostre emissioni, rivedendo le nostre produzioni e soprattutto i nostri consumi. Il problema più grande che abbiamo è questo. I koala sono colpiti duramente oggi, conclude la pagina Facebook Chi ha paura del buio, ma domani toccherà ancora ad altri animali, altri ecosistemi, altri uomini e forse anche a noi. Notizia allarmante e sconcertante la prendiamo dal portale www.nonsoloanimali.com. Parliamo della decisione di assoldare tiratori professionisti in Australia per attuare un'operazione di abbattimento di cammelli selvatici dalle proporzioni enormi. I cecchini uccideranno, sparando dagli elicotteri, più di 10.000 cammelli selvatici. Il motivo è che bevono troppo. Pare infatti che gli anziani indigeni di Yankuni Tiatiara abbiano approvato l'abbattimento sostenendo che gli animali creano problemi perché l'acqua scarseggia. I cammelli entrano nelle case e cercano di bere l'acqua attraverso i condizionatori d'aria. Insomma, per gli animali dell'Australia non c'è pace. Traditi due volte dal fuoco e dagli abitanti umani della loro terra che trovano la soluzione nell'uccidere ancora e ancora. Una strage senza senso se pensiamo che il cammello è un animale che si adatta molto bene alle aride distese di territorio. A causa dei cecchini, quando verrà uccisa un esemplare di cammello madre, questa lascerà soli i suoi piccoli cammelli. Rimarranno orfani, destinati a soffrire per giorni, senza cure, senza latte e soprattutto senza la protezione della madre. Alla fine l'uccisione dei cammelli adulti porterà alla morte disumana e tragica dei piccoli cuccioli di cammello. Questa triste rassegna di notizie con una curiosità. Dalla Somalia arriva un appello per non abbattere i cammelli. I somali esortano gli australiani a smettere di abbattere i cammelli per mandarli nel Corno d'Africa, dove potranno prendersi cura di loro. I somali hanno un profondo amore per i cammelli, unità di misura di ricchezza ma anche di status personale. Ci sarebbe una teoria secondo la quale i cammelli furono portati in Australia proprio dalla Somalia. Il presidente della Somaliland Camel Herders Association, Mustafa Khalid Dick, ha affermato che gli animali sono molto preziosi per i somali e secondi solo agli esseri umani, e che l'Australia dovrebbe risparmiare la vita dei cammelli mandandoli da dove originariamente provenivano. Altri hanno invece affermato su Twitter che gli animali potrebbero essere sistemati nella regione MENA, tra Medio Oriente e Africa, perché teoricamente deriverebbero proprio da lì. Interessante e anche un po' ironico che un continente che viene considerato da noi occidentali come tribale e primitivo ci stia in realtà dando una lezione di compassione animalista. minute battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Spargimento di sangue dei cammelli ha scatenato tutta una serie di commenti nei social. Ne prendiamo uno che ci sembra particolarmente interessante perché attraversa più questioni e mette in relazione tra loro istanze ambientali ed economiche. Il commento è di Barbara Balsamo. La questione dell'acqua dei cammelli impone una riflessione diversa, a mio avviso, rispetto a quello che leggo in giro, sostiene Barbara Balsamo. Seppur in un contesto particolare di emergenza, siamo oggettivamente al punto in cui si attua la prevista guerra per l'acqua, come presto sarà per il cibo. Tranquilli, non è specismo, perché arriveremo a ucciderci anche tra umani, in competizione per questo sommo bene necessario. In effetti, aggiungiamo noi, la sensazione è proprio quella. In tempi duri per tutti, non è forse sbagliato intravedere in questa decisione un salto di qualità nel cinismo e nella violenza con cui l'umanità cerca di accaparrarsi le risorse naturali, escludendo tutte le altre specie, attraverso un vero e proprio genocidio. La sensazione è che arriverà presto anche la fase della concorrenza tra umani. Già adesso le popolazioni indigene vengono espropriate delle loro terre e delle loro risorse ancestrali. E forse verrebbe da dire proprio perché le popolazioni indigene sono i gruppi umani rimasti più vicini alla condizione animale. They call me the wild rose, but my name was a lie today. Why they call me if I do not know? First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Cambiando argomento, ma non troppo, stupisce che sia stato proprio il mondo del cinema, un mondo così effimero e frivolo, a dare un primo segnale forte sulla questione spinosa dell'insostenibilità degli stili di vita lussuosi e opulenti occidentali. Il 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills in California si è tenuta la 77esima edizione del Golden Globe Award, il riconoscimento statunitense che viene assegnato annualmente ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione. Quentin Tarantino, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio e Nicole Kidman non si sono scandalizzati di trovare servito in tavola un menù a base di barbabietola ai pistacchi, risotto ai funghi e praline al cioccolato fondente. Non hanno rilasciato dichiarazioni del tipo «anche le carote soffrono», né si sono ribellati al grido di «ci state imponendo il vostro estremismo vegan». No, hanno cenato senza sacrifici, cercando anche di fare qualcosa per il cambiamento climatico. Certo, la macchina hollywoodiana e il suo soft power possono fare molto per sensibilizzare sulle questioni ecologiche. Ed è incoraggiante che personaggi come DiCaprio e Phoenix siano così sensibili all'argomento. Joaquin Phoenix, miglior attore per Joker, ha chiesto ai VIP dell'entertainment di fare di più per combattere il clima impazzito, perché, ha detto Phoenix, la cena vegana non basta. Altre star hanno evocato gli incendi in Australia e Nicole Kidman ha pianto sul red carpet perché la sua casa australiana è minacciata dalle fiamme. È quasi paradossale come il mondo del cinema si sia dovuto confrontare con il reale, un reale talmente drammatico da sembrare un film di fantascienza distopica. Dedicata all'Australia e ai suoi incendi, la ricetta della settimana, curata dal fedelissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno dello spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Si torna a parlare di Australia e purtroppo non sono notizie positive. Questa volta, per rendere omaggio a questo lontano paese, una salsa imperdibile, dal sapore intenso e altamente salato. Forse non tutti l'apprezzeranno, ma pare proprio che gli australiani ne vadano matti. Sto parlando della Vegemite, crema vegetale da spalmare sul pane tostato, magari per un avocado toast, sui pancakes o per accompagnare dei formaggi vegetali. Semplice e rapida da preparare. Gli ingredienti sono 100 g di semi di sesamo nero, 30 ml di olio di sesamo, 100 ml di salsa tamari, 3 cucchiai di lievito alimentare in scaglie e un cucchiaio di aceto di mele. Fate tostare i semi di sesamo nero in una padella o in forno. Fate attenzione a non bruciarli e, trattandosi di sesamo nero, non è facilissimo fermarsi prima che sia troppo tardi. È necessario solamente un minuto con una padella antiaderente e su una fiamma media, mescolando di continuo. Oppure portate il forno a 200 gradi, mettete il sesamo in una teglia su carta forno, spengete il forno e lasciateli pochi minuti. Una volta tostato, lasciate raffreddare il sesamo, quindi con un macina spezie riducetelo in polvere. Adesso mescolate la polvere nera di sesamo con l'olio e poi tutti gli altri ingredienti. Mescolate bene, quindi versate in un barattolo di vetro e conservate in frigorifero. Skip a beat and move the body. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Per la colonna sonora di questa puntata ho scelto tutti musicisti di origine australiana, come Crooked House, In Excess, Nick Cave con la Kylie Minogue e Lisa Gerrard. Lo spazio però lo dedichiamo al nuovo singolo di Michael Stipe, che per i suoi 60 anni fa uscire Drive to the Ocean, una canzone dai forti temi ambientalisti, i cui ricavati andranno a un'associazione no profit fondata da Jessie Perry Smith, la figlia di Patti Smith, e Rebecca Foon, che si occupa di iniziative pubbliche ed eventi culturali per sensibilizzare il pubblico circa l'importanza dell'accordo di Parigi per il clima sottoscritto nel 2016 dagli stati membri della convenzione. E quindi ascoltiamo Drive to the Ocean. By my side, I'll drive to the ocean. The ocean I'll drive. We stand at the water, the wind and the sun, where all of God's creatures are gathered as one, surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came to explore, just look where that got us, look where that got us. We've been here before. Radio transistor, my friend. Radio, love me. Radio, sand. Radio, the ocean. Radio, the end. La sentenza di un tribunale inglese che ha accolto il ricorso di un impiegato licenziato a causa del suo veganismo etico. È probabile che la sentenza farà giurisprudenza. Quel che è certo è che farà storia, perché invita ad andare al di là della semplice questione alimentare, carne sì, carne no, e rilancia il dibattito pubblico sui temi a monte della scelta vegana e vegetariana, evidenziando il fatto che ormai la discussione sulle conseguenze dei nostri stili di vita non è più rinviabile né derubricabile come mero scontro fra scelte o mode alimentari. Sulla storica sentenza, il nostro Lorenzo Guadagnucci ha sentito il professor Luigi Lombardi Vallauri, professore di filosofia del diritto e amico della non violenza. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Il veganismo serio non è certo soltanto una preferenza dietetica o gastronomica, è un'applicazione rilevante del principio razionale e spirituale della non violenza, della ahimsa che Gandhi chiamava antica come le montagne, e che, iniziando proprio nel rapporto con gli animali, come critica del banchetto e del sacrificio religioso cruenti, è stata scoperta in India dagli yogin, dai buddhisti e dai jainisti più di 2500 anni fa. Avevano già capito un sacco di cose. Il progresso storico è, a ben guardare, un progresso in termini di non violenza. Cioè, sempre meno guerra e sempre meno cose di questo genere. Le ragioni della non violenza nei confronti degli animali, quella specifica, sono molto forti: etiche, umanistiche, spirituali, ecologiche, estetiche, di giustizia alimentare interumana, e sono anche ragioni sempre più recepite dal diritto positivo contemporaneo, come dimostro nel mio libro Scritti Animali, uscito nel 2019, che non a caso ha come sottotitolo Per l'istituzione di corsi universitari di diritto animale. Non si può quindi non approvare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Norwich, anzi io le riconoscerei una portata giuridica generale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è diritto vigente di rango costituzionale, negli articoli 10 e 11 sancisce il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza, che include il diritto alla libertà di manifestazione anche pubblica delle proprie convinzioni, e nell'articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura. Perciò, a mio giudizio, la decisione di Norwich è fondata, oltre che sul diritto del lavoro inglese, sul diritto costituzionale dell'intera Unione Europea. Inoltre, come dicevo, la legislazione ordinaria è diventata negli ultimi 20-30 anni sempre più attenta ai diritti degli animali. Concludendo, bene la sentenza di Norwich e bene il progressivo affermarsi nel diritto e nella coscienza sociale del veganismo serio. Chiamo serio quello che non è soltanto dietetico e tantomeno gastronomico gourmet. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 520 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.